Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Pacto viscum donna. Atentito de mí. Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para ayunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol. Tu pincho de vi, dale 17, 57 y 9 de Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tutti Frecuencia de Radio Onda Rossa. Sì, si continua, Marta, vai qua. Aspetta, no, vai. Eccomi. Sì, ops, sì. Scusate, vi ho urlato nell'orecchio. Dopo la sigla formalmente si comincia con La Esquina del Sole, 17:21 minuti prima di questo giovedì 2 dicembre, ovviamente in diretta dall'87.9 di Radio Onda Rossa e dal tripla www.ondarosa.info. E allora, io direi che sì, direi che appunto dopo le chiacchiere possiamo cominciare. Anche se effettivamente oggi, appunto, come dicevamo, abbiamo un'incognita, ma ci sono anche delle incognite che non abbiamo, che sono quelle sicuramente di aprire con insomma, quello che faremo oggi è parlarvi di uno sciopero della fame, insomma, ahimè. Noi vi diciamo sempre che allora intanto facciamo gli auguri alla CAM, la coordinadora Rauco Maglieco, che ieri ha fatto niente po' di meno che il suo 24esimo anno. Coordinadora Rauco Maglieco, ovvero, insomma, se voi lo andate a cercare, una bellissima squadra, direi. Organizzata a tutto punto, la coordinadora Rauco Maglieco è quella che, come ci diceva l'onco Juan Pichun, la loro pratica è l'azione diretta. Lui appartiene alla CAM, la CAM è formata da integranti di diverse comunità e Chiaramente sì, alcune appunto poi integrano la CAM, la Guardia d'Ora Maracomayeco, che come diceva appunto l'Onco Quampicciun agisce in azione diretta, è la parte diciamo dell'azione diretta della lotta di resistenza, ma la loro azione diretta significa il boicottaggio delle macchinarie del capitalismo. Quindi questi sono intanto gli auguri che vogliamo fare alla alla coordinadora Arauco. Compagni e le compagne, auguri, Marice Uo e Mucho Nguyen. Mucho Nguyen, veramente, soprattutto in un momento che diciamo quel territorio proprio in effetti, come l'abbiamo visto, ne ha bisogno. Andremo poi parlare della, insomma, noi vi diciamo sempre che non ci sono, che diciamo parliamo dei prigionieri politici mapuche perché sono tutti uomini, ahimè era questione di tempo, sicuramente non di genere, ovvio, purtroppo. E infatti da due mesi si trova agli arresti Carolina Marileo, una compagna che è stata arrestata circa due mesi fa insieme a sua figlia, e oggi diverse iniziative si stanno tenendo proprio perché in questi due mesi effettivamente anche noi non avevamo trovato, non eravamo stati raggiunti da notizie di questo, e quindi parleremo con lei, credo anche con Geraldine, no, non parleremo con Carolina Marileo, ma parleremo con Geraldine anche di lei, perché comunque ci sarà un'iniziativa a Santiago e sicuramente è una storia che bisogna seguire. Quello che poi riusciremo a fare sicuramente verso insomma diciamo la fine della nostra prima ora, poi vediamo se ci raggiunge Eder o meno, io vi ho parlato tanto in questo periodo, ne abbiamo parlato tanto per un motivo o per un altro, di Emilia Bau. Emilia Bau, ve lo ricordo, era una donna trans mapuche, adesso non so qual è la sua storia del suo essere mapuche, non mi interessa, se la sua comunità mapuche ha detto che era mapuche io a questo mi rimetto. Rimane il fatto che Emilia veramente per tanto tempo aveva cercato un suo spazio nella società dove era nata o comunque dove si trovava a vivere, e lo abbiamo detto spesso che probabilmente ai margini non ci sono i mapuche, e sicuramente una persona trans nella società cilena è molto semplice che si ritrovi negli stessi margini dove si trovano le comunità mapuche. Sicuramente una grossa difensora della terra, dell'ambiente, ma sicuramente una connessione enorme con questa comunità. Emilia è stata poi uccisa, è stata distrutta la sua casa subito dopo, è stata uccisa da altri mapuche che, come ci hanno insegnato a definire gli Acaona, ovvero quei mapuche che ormai sono asserviti al padrone, in questo caso al grande terrateniente di una forestale. Bau è stata praticamente giustiziata, e pochissimi giorni dopo la sua casa è stata rasa al suolo dalle stesse persone che si opponevano al fatto che lei vivesse lì, come si opponevano al fatto che la comunità avesse recuperato quel territorio. Oltre a dover essere sempre io che racconto questa storia, noi abbiamo avuto il contatto di Denise, che è la mamma di Emilia, e oggi sapevamo, perché lei incontrerà gli amici, le amiche, l'amico di Emilia, e quindi era un orario un po' difficile per fare un'intervista, ma noi la volevamo comunque raggiungere per così, per creare questa connessione. Sì, un caso interessantissimo per tantissimi motivi, a me vengono in mente due, tre forse con questo primo che dirò, prima perché è stata una vittima della repressione contro il popolo mapuche, al di là del fatto che forse siano stato anche delle mani mapuche, no? E nella figura di questi Yanaconas a uccidere a Bau. Questa è una cosa comunque che rende il suo caso molto particolare. Un'altra che mi veniva in mente, no? La questione di come lei si trova o si è trovata o ha cercato di trovarsi al suo agio dentro la comunità mapuche, perché come diceva Marta, sappiamo che le identità trans non eteronormative, tranne forse in pochissimi paesi veramente inclusivi, che nemmeno so se esistono i paesi veramente inclusivi e che considerano, insisto, tutte le identità non eteronormative, si trovano nei margini, ai margini. Quindi interessante che lei abbia trovato o abbia cercato di trovarsi bene all'interno della comunità mapuche e che sia stata accolta da una parte della comunità mapuche, no? E questa è l'altra cosa, come diceva Marta, a me non interessa, no, come lei ci è arrivata. La questione è che quando è stata uccisa, parte della comunità Mapuche l'ha riconosciuta come tale, come una di loro. E questo pure è una cosa interessante, no? Diciamo, una persona che non essendo nata all'interno di quella comunità, una comunità, sappiamo, con valori così propri, così di loro, così presenti, no, nella cosmovisione, nella loro cosmovisione, al momento di intraprendere anche questa lotta. Lo dice permanentemente la CAM e le diverse comunità, i diversi pull-off. L'idea è ricostruire la nazione Mapuche, l'idea è recuperare il territorio, quindi un obiettivo mica piccolo, direi, importantissimo. E che una comunità così, che porta avanti da tantissimi anni, da secoli, direi, una lotta come questa, abbia accettato e integrato a una persona come Bau, a me risulta interessantissimo, di questa storia, che per questo ne vale la pena, perché è stata una vittima di questa guerra, di questo genocidio contro il popolo Mapuche, perché come persona trans, non eteronormata, aveva trovato all'interno di una comunità Mapuche un certo benessere, un certo senso di appartenenza, forse meglio, e la terza, che giustamente era stata accolta, no, questa persona Bau, e per questo motivo proveremo sicuramente, se non lo impedisce la tecnica, la tecnologia, noi proveremo a parlare con la madre di Bau per introdurre ancora meglio questa storia e sicuramente poter approfondire nei giorni e le puntate successive. Quindi io ho promesso a Denise che comunque oggi una chiamatina l'avremo fatta con lei, però io intanto quello che voglio dirvi è intanto che avremo la nostra trasmissione sulla Colombia, che mi si è materializzata qui. Buongiorno Eder. Buongiorno Eder, lì. Secondo me anche in Australia, ma secondo me in Australia mo fa molto più freddo. O no, forse è estate. No. Vabbè, insomma, non lo voglio sapere. Allora io direi che mettiamo intanto un brano, sì, dai, con cui vogliamo dire, sì, bentornato a Rainer. Ah, è vero. Che da 24 ore è tornato in questo fantastico continente. Insomma, bellissimo. Lui, lo sapete, è tornato dai territori, insomma, avrà tante cose da raccontarci, tanto materiale da dirci. Questo contatto con Denise Bau oggi è una parte della ricchezza che Rainer ci ha portato indietro, e quindi io gli voglio dedicare Me Voi, che immagino che lui, triste e così a testa bassa, trascinava il suo trolley verso l'aeroporto di Santiago dicendo: ciao, Me Voi, mannaggia da qua. Ecco, e quindi Rainer, lo so, però qui c'è chi ti vuole ci bene. Tornerai. RP. Certo, come ti dico, però il problema è tu che hai scelto Milano. Oh Gesù, oggi sono un po' arrugginita. Vai. Dai. Ah, pensavo fosse questo. Me voy pa'l sur y no tengo miedo de decirle que no quiero la vida que propusieron. Enrolo y me voy pa'l cielo pensando siempre en lo que quiero, que lo que ya no pisa el suelo como mi querido abuelo. pipanto en la llanura. Allora, come vi avevo annunciato, io vorrei così un attimo, chiaramente da Radio Curruf, la radio insomma che più con immediatezza ci ha informato rispetto appunto all'arresto, e quindi andiamo a leggere proprio il comunicato pubblico scritto appunto dalla comunità sull'arresto della Werken. Come sapete, la Werken è un'altra autorità ancestrale Mapuche, Carolina Marileo Saravia, che ha appunto iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Angol, che conoscete proprio perché Angol, Temuco, insomma sono i carceri dove appunto, ne abbiamo parlato parecchio. Attraverso questo comunicato pubblico ci dirigiamo alle differenti lofi resistenza del Wolmapu, ai guerrieri che stanno in lotta diretta e che stanno contro le grandi imprese forestali, latifondisti e distinte imprese capitaliste, ai Pegni e Lamien, le organizzazioni sociali e persone individuali che appoggiano e simpatizzano con la nostra causa Mapuche. Primo, la nostra Carolina Marileo Saravia, Werken, dirigente dell'Of Buyen Mapu de Ercilla, attualmente in prigione preventiva nel carcere di Angol da circa approssimatamente quasi 3 mesi nella sezione femminile, e ben riconosciuta nel settore d'Ercilla per essere una Lamien di lotta e fermezza nel recupero del territorio, così come per affrontare diversi fatti di persecuzione che gli sono toccati nel cammino di lotta, persecuzioni da parte dell'Stato del Cile e delle imprese forestali e del Ministero Pubblico. Secondo, nel centro penitenziario di Angol è stata formalizzata, in molte occasioni si è stabilito un dialogo per chiedere migliori condizioni carcerarie, tanto in modo verbale che attraverso scritti diretti al sindaco Rafael Rojas Sidi, il direttore regionale, al direttore Leonardo Barrientos e l'attuale nuovo direttore regionale della Huracania Dieter Villarroel, ottenendo nulla risposta delle petizioni fino al momento che esponiamo quanto segue. Alimentazione propria d'accordo alla costume Mapuche, così la sua preparazione, moduli differenti al resto della popolazione per non coincidere col tempo con il tipo di pensiero e forma di agire, così come d'accordo ai costumi e le tradizioni Mapuche, in un luogo dove si possa realizzare una cerimonia di forma tranquilla. La visita estesa a un orario di 10 a 16 ore 2 volte per la settimana. Capiamo che alcune forme questa supposta pandemia, che è sempre una scusa della gendarmeria, però che tutto può essere dialogabile per arrivare a un accordo. La visita dei familiari, amici nella sezione femminile, nello spazio dove si trovano attualmente, mentre si arrivi ad alcun tipo di conversazione soddisfacente con la gendarmeria. E poi che per tutto ciò che è stato esposto anteriormente e dovuto all'incapacità e mancanza di dialogo da parte dell'istituzione della gendarmeria, la nostra Lamien ha deciso di realizzare uno sciopero della fame liquida che al dia di oggi, 22 di novembre, e sappiamo ancora in corso, sollecitando che si risolvano le sue richieste già menzionate, e in appoggio ai 6 scioperanti del modulo sollecitando simili condizioni carcerarie, tra i quali appunto si trova un altro membro della comunità Boyen Mapu, Juantoro Manquel. Questo sciopero della fame, questo sciopero della sete è di carattere indefinito o finché si trovi una soluzione alle loro richieste. Tutte le situazioni che e tutto ciò che accada alla nostra, la mia Carolina Marileo e a Juantoro sarà responsabilità diretta della gendarmeria e dello Stato dovuto alle differenti persecuzioni che si realizzano alla nostra gente. Per ultimo, chi conosce la nostra, la Miene e Pegni, le chiediamo di appoggiare e manifestare in favore alle loro richieste e lasciando la libertà di azione ai Pegni e alle Lamieni in appoggio alla mobilitazione, prendendosi cura in tempo di militarizzazione che esiste in differenti territori. Fuori la forestale dal Wolmapo e Yanaka e Yanakonas, di cui sopra, libertà ai prigionieri politici mapuci e della rivolta sociale Marriciueu. Come sempre, idee chiarissime, come sempre, insomma, ci vuole una forza in più, una voce in più, perché una compagna mapuche ormai arrestata da quasi 3 mesi venga a galla e imponga con forza così non solo la propria autorità ma anche le proprie richieste. Sì, stiamo parlando della stessa logica di sempre, la mancanza di dialogo da parte delle autorità quando si richiedono forse semplicemente a volte dei diritti, non altro di questo, e lo stesso tipo di repressione. In questo caso non cambia la situazione. Sì, era questione di tempo, dicevamo, finché la repressione dello Stato si materializzara, per esempio, in una riferente femminina, donna, huerquén in questo caso. Però anche diciamo in questo caso si vede soprattutto quasi la costrizione di arrivare a una decisione determinante di questo tipo, come sempre lo è lo sciopero della fame, perché c'è una mancanza di dialogo. Prima di tutto ci sta la mancanza nel rispetto dei diritti. Ci si prova ad arrivare attraverso le forme, tra virgolette, formali, burocratiche, no? Delle diverse istituzioni repressive, in questo caso gendarmeria, nello Stato cileno. Alla fine non c'è nessuna risposta, si insiste, non c'è dialogo, allora si devono prendere le misure di questo tipo. E quindi ci troviamo con un nuovo caso di sciopero della fame, addirittura si fa, come succede sempre, responsabile della situazione non solo di questa huerquén di Carolina Marileo Sarabia, sino anche di un altro compagno, Juantoro, perché entrambi, Juantoro della comunità Boyen Mapu, dicevamo, entrambi si trovano in questa situazione. Quindi continua per ora lo sciopero della fame, con assunzione di liquidi. Quindi saremo attenti, seguiremo questo nuovo caso, perché nel caso di Carolina, della huerquén Carolina Marileo, si tratta addirittura non solo di una leader, di una referente mapuche, ma anche ovviamente una donna. E lì sappiamo che la violenza, la repressione, no, trasversale che provoca il maschilismo, ovviamente si accanirà e si accanisce contro di lei. Non so, Marta. Sì, io direi che scusate. Ora, allora, sì, sicuramente la compagna poi era stata arrestata con la figlia in un primo momento. Sicuramente essere huerquén, sì, come l'abbiamo diciamo spesso, essere un'autorità mapuche fa sì che si abbia un occhio in più addosso. Questo non ce lo levano dalla testa. Ma insomma, oggi tra una cosa e un'altra, il segnale, la pioggia, abbiamo iniziato un po' in ritardo. Io credo che torneremo giovedì prossimo a parlare di questa storia. Lo faremo anche con Geraldine, che mi stava aspettando, ma per fortuna è empatica e comprensiva. E insomma, oggi, come sapete, in un'ora 2 telefonate non sempre è semplice farlo. E ancora stiamo un po' cercando di approfondire le notizie che riguardano questa compagna. Di certo, come ci dicevano anche nel comunicato, la recuperazione, il recupero territoriale è della comunità e il territorio è stato occupato, usurpato dalle forestali. Sappiamo che le forestali, questo nome in cui poi forse entreremo pure a chiamarle per nome così che gli possiamo fare la macumba, sono un po' veramente le imprese del momento, no? Quelle che sul territorio cileno stanno dando più filo da torcere, sicuramente stanno facendo cose più infami, insomma. Questo non ci leva dalla testa quello che è successo nei territori, e che, insomma, ce lo diceva anche il Lonco Juan Picciun nel suo territorio, il territorio dove hanno fatto appunto il 3-1, dove è stato ucciso l'ultimo compagno, è proprio un territorio preso dalle forestali, forestali che, a differenza di quelle che dovrebbero essere a casa nostra, comunque sono quelle che si appropriano dei territori ancestrali per farne poi percorsi turistici, per diciamo, no, i treni, mi viene a dire Tre Maia, però insomma, diciamo che quello potrebbe essere un esempio, non è il Tre Maia, però sicuramente queste sono le forestali. Non so se in Argentina le forestali fanno lo stesso lurido, sporco lavoro. Sì, non so, guarda, non te saprei dire, ma credo, direi che non abbiamo forse lo stesso tipo di problema quantitativamente, no? Qualitativamente sì, certo, no, le forestali sono quelli che ovviamente anche gestiscono le piantagioni di eucaliptus, che abbiamo detto quanto ovviamente succhiano l'acqua e si fanno solo per l'industria della carta, oltre sì, imprendimenti immobiliari, eccetera, eccetera. L'Argentina, per anche l'estensione maggiore rispetto al Cile, c'ha un altro problema, lo diciamo e lo nominiamo sempre con il caso Benetton, che è il possesso, diciamo, della terra nelle mani dei grandi capitali, addirittura stranieri, no? Cioè, quando nemmeno, o dove nemmeno, lo Stato argentino può a volte mettere mano, oltre al fatto che ovviamente diventa direttamente complice di questi, diciamo, capitalisti della terra. Benetton, lo abbiamo detto sempre, più di 1 milione di ettari lì in Patagonia, e quindi forse non si trova tanto in quanto alla la quantità questo problema delle forestali, ma sì, certo che sì, sono pure dall'altra parte della cordigliera. E allora io direi che mettiamo un altro brano, che è una richiesta, perché giustamente qui non mi posso tirare indietro, e poi vediamo se riusciamo, come avevamo anticipato, a raggiungere al telefono Denise Bau. Bueno, queridísimo, para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar arrepiento. Nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Suave y fragante. lo que encontré en tus brazos me había resignado a una vida en soledad. Fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas el ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento, y hoy me paso el día cantando. Pensar hasta cuándo. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? 52 minuti, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Non vi nascondo l'emozione, perché è una storia che vi abbiamo raccontato tante volte. Stiamo parlando della storia di Emilia Bau, ma la mia emozione è perché sono qui al telefono con Denise Bau, niente altro che la mamma di Emilia. Allora, primero que todo, Denise, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos un poquito a contar lo que es la historia de Emilia. Hoy nada más vamos a hacer una pequeña introducción. Hoy nada más vamos a conectarnos y después volveremos a hablar de ella más allá. Entonces, primero, muchas gracias y bienvenida en Radio Onda Rossa de Roma. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy contenta de que ustedes estén apoyando la causa de Emilia, ya que para nosotros, todas sus amigas, amigues, y para mí, que soy la mamá de mi sobrecho, me llamo, es súper importante visibilizar la situación en que mataron a mi hija por ser una persona que le importaba mucho. Tenía varias causas, por ejemplo, los animales, que no fueran maltratados, que no fueran utilizados para la industria, la defensa de la tierra, la defensa de que los mapuches finalmente pudieran realmente recuperar sus tierras como corresponde, porque le han sido usurpadas durante muchísimos años. Y también su causa trans, porque Bau cambió su género ya estando más o menos grande, como a los 20 y algo. Emilia Bau tenía 25 años cuando la mataron por estar apoyando un blog mapuche para que la gente tuviera acceso a las playas. Es un lugar que se llama Desagüe, en el sur de Chile, en Panguipulli, un lugar muy hermoso. Realmente a mí me impactó mucho ese lugar porque la acompañé en verano cuando estaba de vacaciones y encontré que era un paisaje demasiado, no sé, celestial, algo que uno podía ver, no sé, en alguna revista religiosa, de alguna religión. Era unos paisajes muy mágicos. Y estuve con ella, compartí con los mapuches, y en realidad puedo decir que son gente maravillosa, que la recibieron, la quisieron, la entendieron y la respetaron con sus diferencias y su cambio de género. Por eso se cambió también su nombre de Boris a Emilia Chilén, y empezó a cooperar con los mapuches en este sentido de que la gente tuviera acceso a este lugar, que en Chile, lamentablemente, aunque la ley dice que pueden las personas siempre acceder a 20 metros de todas las playas, ya sea del lago, mares, ríos, pero es algo que no se cumple porque los empresarios, que son dueños de lugares muy exclusivos, simplemente no permiten que la gente disfrute de estos paisajes maravillosos y ponen cerco. Y esto a los mapuches les parecía muy injusto, además que eran tierras ancestrales de la familia Manquén. Entonces Bau acompañó, ayudó a sacar estos palos que separan y que no permiten el acceso, y lamentablemente no era mucho el tiempo que estaba ahí. Yo me fui a Valdivia con su amiga, y estando yo en Valdivia, Bau estaba en otra ciudad, en Vilcún, que estaba justamente buscando sus raíces, esperaba tener ancestro mapuche, lo cual yo le dije, yo lo dudo por los apellidos, por la historia que conozco de la familia, pero él insistía porque le gustaba, quería ser mapuche. Sí, Denise, deme un segundito para que yo traduzca un poquito. Un ratito, si no después se me pierde lo que tú dices, y creo que en cambio es muy, muy importante. Allora, Denise ci racconta, intanto ci ringrazia perché lei adesso è con i compagni, le compagne, il compagno di Bau, e sono molto, si stanno facendo forza, fanno gruppo per far uscire la storia di Emilia. Emilia aveva cambiato il suo sesso a circa 20 anni, ne sì, aveva sì. 25 quando è stata uccisa. Appunto. e subito però era andata a collaborare, a partecipare alla vita della comunità mapuche, una comunità che l'aveva accolta, che l'aveva fatta integrare, che si era preso cura di lei, che gli aveva dato una casa, una comunità, e sicuramente Bau è stata uccisa proprio per il suo interesse di difendere la natura, di difendere gli animali, di fare sì che gli animali non venissero maltrattati. Questi sono stati i motivi per cui sicuramente Bau è stata presa d'occhio. lei collaborava con questo pull-off che tra le altre cose chiedeva pure il diritto di poter avere un accesso alla spiaggia, no? Esatto, perché c'era un lago. Ci raccontava anche, diciamo, il paesaggio o il contesto dove si è trovato, non solo il contesto umano ma anche il contesto geografico dove si è trovata Pau. Un paradiso, diceva che bellissimo, sembrava una cosa veramente paradisiaca, e ha avuto anche belle parole verso la comunità mapuche che l'ha accolto a Pau, no? Sì, giustamente Denise torna a dirci che il popolo mapuche è un popolo, come diciamo sempre, che sta lottando da decenni per tornare sulle proprie terre che sono state usurpate da grandi multinazionali straniere o terratenenti locali. In questo caso non mi ricordo il nome della famiglia, comunque sicuramente una famiglia che ha mandato avanti degli aguzzini ad eseguire la morte di Bau, che comunque passava anche molto il tempo a cercare dietro nelle sue radici questi discendenti mapuche, perché come ci dice Denise, anche dal nostro cognome, no? Bau sarebbe stata veramente felice di trovare che nel suo sangue effettivamente c'era una progenie mapuche. Grazie a Denise, sì, che por favor. Bueno, y justamente está en búsqueda de esas raíces ancestrales mapuche. Cuando vuelve el 16 de febrero al Lof mapuche, y en la tarde había ocurrido un problema entre unos supuestos jardineros que habían contratado, y habían estado molestando a gente que se había instalado en carpas a la orilla del lago, y estos tipos empezaron a matar a los niños, luego a la familia, y se había hecho todo un conflicto al cual incluso asistió un carabinero y el administrador. Y los mapuches habían llegado al acuerdo que estos tipos tenían que retirarse de ahí porque estaban realmente maltratando a los niños. Y cuando llegaba aún como a las 10:30 de la noche, porque como estaba en cuarentena, se tuvo que viajar a dedo porque lo llevaron, porque no había locomoción, y y ahí nuevamente había partido el conflicto, y acompaña a los mapuches a dialogar nuevamente por lo que continuaba el conflicto con la gente de las carpas, y van caminando hacia la portería del condominio, y aparecen cuatro de estos supuestos jardineros y empiezan a disparar, y van cuatro mapuches delante, mayores, y en segunda fila hacia atrás iba una chica de 15 años, Bau, una otra chica de 25 años también, y un joven como también de esa edad, y ellos empiezan a disparar, y bueno, los mapuches se tiran al suelo y se esconden detrás de los árboles, y inmediatamente una de las balas le entró por la sien a Bau, y ahí la tomaron, la llevaron a un centro hospitalario en Palipuy, y luego a Valdivia, pero ya llegó a Valdivia con, según me dijo el doctor, con muerte cerebral. Y esos fueron los acontecimientos de ese día que marcó toda esta tristeza, y bueno, y desde ese momento todas sus amigas, amigues, de tanto del sur como de aquí de Santiago, su compañera de colegio, amiga de muchos años, de pequeña, y se empezaron a movilizar y a tratar de visibilizar esto, que hemos recibido mucha ayuda, pero no de los medios formales de comunicación, sino que de gente que son organizaciones que defienden la tierra, otros que defienden el feminismo, otros que defienden el género, la naturaleza, etcétera. Y ellos son los únicos que han transmitido esto que pasó con Bau, excepto el día que pasó, que yo no lo vi porque obviamente estaba en el hospital con Bau, y ahí habló el intendente, y comunicaron, pero una comunicación que no era muy completa, tampoco dijeron que eran personas contratadas como jardineros y que nunca habían hecho esa labor. Y en el fondo finalmente uno se da cuenta que eran sicarios, porque eran personas contratadas de una zona muy lejana, de 478 kilómetros, en otra ciudad, y hombres que habían estado en la cárcel, la mayoría tenía un prontuario de delitos, y finalmente uno se da cuenta que los empresarios no quieren ceder ni siquiera algo que por ley está, le corresponde a todos los chilenos y todas las personas que habitan este territorio a poder utilizar los lugares a orillas de playas, porque el paisaje y los espacios son permitidos, o sea, por ley. Cierto. Además que están acostumbrados a tener sus privilegios y no da la impresión, a mí me da la impresión, que no quieren entregar nada de lo que en algún momento usurparon a la gente mapuche, y e incluso pienso yo que hasta el Estado, porque esos terrenos se supone que eran de la Armada chilena. Sí. Entonces no debieran estar en manos de particulares. Allora, ¿sí? Denis ci racconta in breve. Prima il successo, no? Prima diciamo i fatti successi. Infatti. Quindi Babu ritorna dopo aver fatto questa ricerca, torna sul territorio dove viveva, e in quel momento c'è una sorta di così di scontro, diciamo, per cui vengono alcuni, un giardiniere accompagnato da altri loschi individui, insomma gente messa lì tipo custodi, che si identificano come custodi, ad affrontarli c'erano alcuni mapuche anziani, grandi, proprio in cerca di dialogo. Vengono mandati, si mettono davanti di questo gruppo di mapuche, si mettono davanti appunto ai mapuche, cioè questi, più grandi. Questi apparenti giardinieri vanno a confrontare a delle persone che stavano, esatto, nelle, che stavano tende, nelle tende, nel posto che era appena lago. Stato ripreso. E quindi che succede? E questi mapuche anziani si mettono davanti, dietro c'è una bambina, c'era Emilia, c'erano altre persone. E niente, queste persone hanno sparato, niente dialogo, niente di niente, e Bau viene colpita, il suo corpo verrà subito soccorso, verrà portata in un ospedale. Però arriva già a Valdivia, come le ha detto il medico, il dottore, alla madre di Bau, con morte cerebrale, perché era stata colpita in testa. Dopo ci racconta che a partire ovviamente di questi fatti comincia a ricevere la solidarietà, però la solidarietà di ovviamente le organizzazioni femministe, di collettivi di genere, le compagne ovviamente di scuola e gruppi femministi, gruppi transfemministi e dei mezzi di comunicazione alternativi soprattutto, e ci fa capire come c'è un silenzio attorno a questo caso, almeno nei grandi mezzi di comunicazione commerciali, ma anche dalla parte istituzionale, dove se non c'è un silenzio almeno c'è un'idea di confondere le cose, perché parlava lei di una comunicazione fatta addirittura dal sindaco, ma dove non si spiegava bene chi erano queste quattro persone, che esatto, mai avevano lavorato dei giardinieri, che non erano stati mai contrattati come giardinieri, quindi viene fuori, viene a gala l'ipotesi che questi siano direttamente dei sicari. Questo, diciamo, le istituzioni dicono non possono essere stati loro, questi sono dei semplici, rifiutano le istituzioni di riconoscerli come sicari, rimanendo sul fatto che comunque era gente che stava lì come custode, neanche li riconoscono come possibili sicari, mentre invece sappiamo benissimo che queste persone non solo avevano dei precedenti con questo tipo di azioni, quindi era gente che si prestava a fare un po' il braccio armato di chi li pagava per fare qualche cosa, e quindi ancora più difficile, ci dice, è riuscire ad arrivare a quella famosa verità che noi spesso sappiamo, ma che poi scriverla nero su bianco è sempre molto difficile. Denis, io sé che ese cuento no es muy simple para ti de hacer, volver a recorrer todos los hechos que llegaron a la muerte de Bau. El tiempo es tirano y no tenemos mucho más. Yo te agradezco por ese primer encuentro, por el cuento que nos ha hecho, de verdad te agradezco mucho, porque creo que es importante que no sea yo a contarlo siempre, pero que haya voz de quien vivió Bau muy de cerca, y tú eres la persona, creo, especial para hacerlo. Ya nos acordamos para volver a hablar de Bau. A mí me gustaría volver a conocerla, a saber, además de la riqueza que era esta persona, y lo que tú nos has contado ya lo expresa muy bien, y volver a hablar con su compañera, volver a entender de por qué hay necesidad de personas que sean como Bau, o otras, que no... que encuentran su libertad en las comunidades autónomas, en comunidades que no tienen miedo a abrirse a personas que quizás no sean de sangre mapuche, pero sí comparten un sentido muy horizontal de querer lo que tienen alrededor, que sean humanos o la naturaleza y los animales, ¿no? Así que yo te agradezco mucho, mando un saludo. Yo sé que tú estás acompañada de sus compañeros, de sus amigues, y así que engrandezco mi abrazo a todos ellos. Y pues nos vemos a hablar en la semana, para volver a hablar de ella la semana próxima, ¿sí? Sí, muchas gracias por dar a conocer esta situación y porque sé que ustedes lo están transmitiendo y contando, y bueno, decirle solamente que Bau era mi hija, obviamente que la tengo que amar, pero reconozco en ella una fortaleza, que a lo mejor también tuvo esa posibilidad de libertad, de elegir muchas cosas y respetar, yo respeté que sus cambios, el querer viajar, el querer conocer a otras personas y siempre acompañada de su compañera, amiga, y una situación muy linda de relacionarse con su amiga. Era muy alegre, divertida y buena para hacer chistes. Muchas gracias y les seguiré contando lo que ustedes quieran saber. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a vos. Así que otra vez mucho Nehuen desde acá, y te digo también que Bau estuvo con nosotros en la plaza del Trans Day of Remembrance, porque no podíamos hacer de otra manera. Así que otra vez un abrazo y hasta pronto. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias. Chao. De todas las chicas también. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Grazie. Allora, bellissimo sentire Denise, sì. Sentire insomma questo abbraccio speciale che ci arriva da questo gruppo di persone che erano lì a parlare di Emilia. E allora noi mettiamo brevissimamente, chiudiamo qui e mandiamo un altro brano musicale, forse anche lo tagliamo di modo che non rubiamo altro tempo ad Everer, che è qui invece caldissimo, pronto ad iniziare una nuova trasmissione sulla Colombia. Vogliamo prima della canzone dire, solo accennare di cosa parleremo prima della Eder. Musica? Dai Eder, che ce la fai? Sì, ce la fai, sei arrivato fino se a la qua, voce dai. C'è, lo possiamo fare. Buongiorno prima di tutto. Buongiorno. No, la idea di oggi è fare una piccola chiacchierata, una piccola conversazione. Sì. De come mai una popolazione, un popolo, un paese arriva all'idea di pace. Ok. Cioè che c'è dietro di tutta quella storia. Al di là del caso colombiano. Sì, no, in forma cominciamo generale, alla larga. Come mai un paese, una cultura che ha fatto guerra durante qualcuno anche durante secoli, dopo un processo complesso, perché sempre sono complessi. Certo. Arriva alla decisione etica di fare un processo di pace. Perfetto. E allora ci sentiamo tra qualche minuto. Un po' di tuoni qua, ci mancavano. La Espina, Santa Feria, ci sembrava la canzone adatta. We'll be right back. no quiere salir, agoniza en la vereda el amor que yo sentí. La lluvia afuera me espera para mentirme otra vez, que me amarás toda la vida y contigo amaneceré. Effettivamente in questo video facevano esattamente quello che stavi dicendo, così insomma bisogna trovare un modo di far passare queste giornate di pioggia, e noi lo facciamo parlando di perché un popolo ha bisogno, un paese, uno stato, no? Ha bisogno di un accordo di pace. Che cosa ci deve essere dietro un accordo di pace? Cioè, come arriviamo al punto, come diceva Edri, in cui, ma ragazzi, mi sa che qua ci vuole un accordo di pace, cioè come che arriviamo a quel punto? Come cominciare? Dall'inizio. È un tema molto molto complesso, perché il problema è che non si capisce qual è l'inizio. Ai ai ai. Quindi, dai, come tutti, proviamoci. Come tutti i problemi degli esseri umani e le società, è difficile capire l'inizio di un processo. Sono processi, e in quanto processi sono lenti, complessi e difficili. E in quanto processi è molto difficile capire il momento esatto dove una società comincia a fare una scelta e cambio di vita o cambio di posizione, o forse quel momento preciso mai esistito. E forse più che un momento diventa un percorso. Sì, è un percorso, quello che le dico, non è l'inizio, è un percorso difficile, complesso, che cambiano le società, e in alcuni casi hanno salvato dell'estinzione anche il paese o la zona di cui si sta parlando. Non stiamo parlando di amnistici, non stiamo parlando di rese, per dire una, per fare un esempio chiaro, non sto parlando della Seconda Guerra Mondiale, quando l'esercito sovietico entra a Berlino e prende praticamente tutto Berlino, si appodera della vicinanza del búnker di Adolfo Hitler. No estamos parlando de momenti così drammatici, o la resa che ha fatto Hirohito in Giappone dopo Hiroshima, certo, e Nagasaki, 6-7 di agosto, una data nefasta per l'umanità, non la dovremmo ricordare tutti. No, non è quello. Stiamo parlando di processi molto più complessi e conflitti molto, molto, molto, molto più complessi. Conflitti dove non è facile trovare un vincitore, e dove, per molto vincitore che possa essere quello, o lui, o questo gruppo, quell'organizzazione, mai ha fatto propriamente fuori a tutti. Sono conflitti sociali, intranazionali, interni, no? Dentro. Locali, etnie o di zone molto specifiche, dove si arrivano a processi di pace, tenendo in conto che nessuno dei due ha avuto la vittoria piena e assoluta del conflitto. È lì dove sta il problema. Sì, perché si è arrivata, scusa, a una situazione tale che è così complessa, come dici tu, che non è che c'è il vincitore e lo sconfitto, per questo non si tratta di un armistizio. Lì anche si potrebbe dire che è più facile, no? C'è uno che ha vinto e uno che ha perso una guerra, un conflitto bellico. In questo caso no, per questo la situazione è molto più complessa, e comunque ci si arriva al punto in cui si dice, vabbè, comunque dobbiamo mettere una fine, dobbiamo cominciare un processo diverso a quello che abbiamo vissuto finora, quindi un processo di pace. Per esempio, per chiarire un altro po', perché è meglio chiarire, quando Giappone sta nella Seconda Guerra Mondiale, e Truman ordena due bombe atomiche, sì, Hiroshima e Nagasaki, e Hirohito, dopo due giorni se non sbaglio, firma la resa frente agli Stati Uniti di quella guerra, e la firma costretto per le condizioni militari che c'erano. Non c'era nessuna convinzione morale né etica di Hirohito di fare la rinuncia, soltanto che militarmente era impossibile mantenere quella guerra. Certo. Ricordo le grosse decisioni del popolo giapponese, il pianto del popolo giapponese e alcuni harikiri che si è fatto il personaggio del popolo giapponese, perché Hirohito aveva abbassato la testa, ¿ya? Sì. Però questo è un tema molto interessante, molto importante di parlare. Era un'altra cosa. Però è un altro tema. Torniamo. Di nuovo. Quando parleremo di storia moderna. Quando possiamo parlare di quelle storie interessantissime europee, che sobre quello possiamo fare una sessione di almeno di 2 anni. Un corso monografico di 2 anni, una laurea breve. Non sto scherzando, sobre quello possiamo parlare almeno 2 anni. Va bene, però torniamo alle condizioni. Aspetta, calmo, bagazzo mio. Calmo, calmo. Stiamo parlando di questa lotte complessissima. Un esempio molto, molto interessante è il processo di guerra e del conflitto che ha avuto l'Iraq con l'imperio inglese, e le lotte quasi durante 500 anni. 500 anni di lotte, guerre interne, attentati, bombe, morti e moltissimo altro, e dopo un processo lunghissimo di pace che comincia con il Viernes di Santo, che è l'ultimo processo, le ultime negoziazioni durano 5 anni, si arriva a un processo di pace più o meno stabile dentro di questa zona del mondo, che è molto interessante. Quindi la domanda mia è: come mai dopo 500 anni una popolazione dice basta, è ora di cambiare, che se bisogna, e dopo la l'altra domanda, a me sui Colombia, siamo arrivati a questo punto o stiamo arrivando, o in che momento di quel processo storico sta? Bene. Perché questo è fondamentale per capire, se sì, io riesco a capire tutto il processo di pace in Colombia e che futuro può avere. ¿Ya? Diciamo che il concetto di pace è molto più facile fare la guerra che fare la pace, per una cosa molto semplice, perché fare la guerra consiste in armarsi e fare fuori l'altro senza fare nessuna discussione, senza fare nessuna intermediazione, senza fare molti esercizi mentali. In cambio, fare la pace è accettare l'altro, lasciarlo vivo e rispettarli in quanto essere umano. È molto più difficile. È molto più difficile discutere con una persona durante moltissimi anni che è diametralmente diversa a me, rispettarla in quanto essere umano. Non rispettarla per lo che pensa, sino perché ha quella cosa che nos uniscono a tutti, è quella herencia genetica che nos fa uguale a me come qualunque altro, a qualunque essere umano, rispettarlo e non ammazzarlo. Il popolo inglese con il dell'ira si avevano ammazzato durante 500 anni. Era un principio che era nato o è nato per differenze religiose. Io sto sicuro che moltissimi di quelli che mi stanno sentendo conoscono meglio il tema che io. E è arrivato un momento in cui quella popolazione dice basta. È molto interessante. O come la popolazione dell'apartheid in Sudafrica, arriva il momento di dire basta. Facciamo un paese dove tutti possiamo centrare, dove tutti possiamo parlare, dove tutti possiamo pensare. E abbiamo gli stessi diritti. E abbiamo risolto al minimo quella parte del problema. Minimo quella parte del problema. Non hanno risolto tutti i problemi del Sudafrica, come in Irlanda non hanno risolto tutti i problemi irlandesi, come in Ghana non hanno risolto tutti i problemi di Ghana. Però almeno si è seduto a parlare e arrivare a accordi. Per questo è fondamentale, e quello è sorprendente, la visione delle donne. La pace nasce nella donna e la giustizia delle donne. E l'uomo, l'uomo maschio o il maschietto, siamo figli de Venus. De Venus. De Marte. Ah, ecco. Di Venus. Sì, chi di Venere, chi di Marte. Siamo figli di Marte. Siamo figli di Marte. Siamo figli della guerra. Sì. Nos piace la guerra. Sì. Nos piace la competizione. Ma meno siamo male. Un po' stronzetti, però cioè, è così. Mi terrei lontano della guerra. Io ovviamente non parlo per tutti gli uomini, come certo. Non parlo per tutte le donne. Certo. Però le donne tendenzialmente almeno diciamo. nella mitologia greca erano figli della diosa dell'amore. Beh. Sì, sì. In cambio sì. Marte aveva fatto a noi. Sì, diciamo che Amazzoni se te piamano te sfondano. Però pensavo sì. Giusto a quello. No, però chissà, le Amazzoni erano nate libere da tutta un'idea che te dicono tu sei femmina e quindi sei figlia di Venere, che forse invece se te lo dicono viviamo tutti un po'. No, voglio dire. Sopra quello hai pensato un po' e ho un ragionamento diverso. Non è che le donne non possano fare la No, però sicuramente no. Noi abbiamo... No. Non è che non lo possano fare, non è che siano bravi, non possano essere bravi a fare le guerre. Esatto. Ma le donne sono sicuro che qualunque donna ha la perseveranza e la capacità per fare 10 volte qualunque cosa meglio che qualunque maschio. Quello per me è indiscutibile. Le donne hanno fatto le guerre e sono molto più determinati, molto più potenti. E se non me lo credete, chiedete alle curde, certo, appunto lo stavo per dire, come infatti. Hanno fatto la guerra come hanno rieducato un'intera società. Voi riuscite a prendere tutto Al-Qaeda e il Califfato Nero e farlo fare passi indietro di una forma incredibile. E anche dove ci sono loro, com'è cambiato il pensiero e l'attitudine degli uomini. E quando anche nell'esercito americano in quel momento erano capaci di vincere in Palmira, non so se ricordate il combattimento di Palmira delle donne curde. Sì, no, la capacità non si mette in discussione, con la capacità non si tratta di chi è più capace o meno, no? Infatti, ma non ci perdiamo, però. Sicuramente lo che non si può negare è che quando si cominciano i processi di pace è la donna la prima che comincia a dire basta. Voi che siete italiani, voi sapete che una faida, la unica che può fermare una faida dentro di quelle culture, sono le donne. Le donne dicono non si fa, non si fa e non si fa. O se la donna fa un segno, la faida comincia. Ya? Perché siamo gli uomini che siamo, siamo la, il materiale, però in realtà tutta la gran parte della legittimità di quelle cose reside in la donna, per fortuna o per disgrazia, chiamatelo come volete. È la donna che ha detto, dicono non si fa la faida e la faida non si fa, no? Okay. È le donne che, quindi diciamo i processi di pace, le donne che cominciano a dire non possiamo partorire figli per la guerra. Esatto, no, ma infatti questo poi le femministe hanno ragionato tanto, non in Europa, dico in maniera generale. Sicuramente poi che quando si annuncia un processo di pace le donne siano in prima fila è perché i conflitti, che siano soldati o madri di famiglia, le donne li pagano di più, no? Questa anche è storia, o comunque o perché sono bottini di guerra, di guerre maschili, o perché partecipano in guerre, ma questo le fa vittime due volte, perché diventano appunto, no, una moneta, diventano. Quindi voglio dire, non mi meraviglia che poi nel momento in cui si decide di fare un trattato di pace le donne abbiano molto da dire e le cose molto chiare, ecco. Quello che io ho potuto fare la ricerca, sono le donne le che fanno la differenza. Sono le donne che cominciano in un processo lunghissimo e complesso. Prima a piangere morti. Poi a dire questo bisogna finirlo adesso e subito. E cominciano a dire non vamo a partorire figli per le guerre. Non vamo a partorire figli per la guerra, non dovremo avere mariti che stanno nella guerra. E non dovremmo seppellire a nessuno per la guerra. E le donne che si mettono avanti piano piano, con la pazienza che hanno, perché veramente piano piano, a modificare il pensiero di tutta la società. Un altro che cominciano a modificare il pensiero sono le persone giovani, los giovani, la parte più scusate, la parte più giovane della società cominciano a dire mio padre è morto in questa guerra, mio nonno è morto, mio bisnonno è morto e adesso voglio che muore anche io. Facciamo un cambio, no? Possiamo pensarci un'altra possibilità. Sì, grazie a questo lavoro come dice le donne grazie si arriva, al no? lavoro che hanno fatto anche le donne a dietro, fare quel click desde che il bambino è molto piccolo cominciano a dire, certo, e questo dopo di anni prende una forma concreta. Un altro elemento che si bisogna, che è fondamentale per prendere una forma di pace, è che il popolo bisogna prendersi la dignità, cioè popolo che non si riconosca come artefice della storia sarà condannato a morire nella guerra e fino a che non lo diventi, cioè è il popolo, la cultura generale che si forza, si struttura, si lavora, si rafforza, cresce come un seme, come un piccolissimo seme all'interno della società, che le dà dignità al popolo. Il popolo ha il diritto di riconoscere come un ente che ha una capacità dignitosa di vita, o ha una storia da raccontare, o ha una cultura per raccontare. fino a che quello non esista è molto complesso pensare che l'utopia o la realtà di una pace possa essere realtà. E questo va sopra o prima che lo scopo politico, economico, quello. Perché quando uno parla dei processi di pace, moltissime persone parlano di se ci sono le condizioni politiche, economiche, se quel gruppo ha vinto potere o non ha vinto potere. Quella è un'altra discussione che lo possiamo fare dopo. Però nel momento che si cerca la pace come una struttura reale, come uno scopo reale, è una rivoluzione che si è creato, si è fatto desde la famiglia e dai piccoli nuclei che compongono il fanciullo, come direbbe qua, del fanciullo che cominciano a crescere quella cultura. Dopo moltissimi anni quella cultura comincia a crescere e quella cultura comincia a fare una piccola rivoluzione o una grossa rivoluzione con le generazioni più vecchie, guerreriste, le popolazioni che hanno vissuto e che non trovano un'altra possibilità che la guerra. Certo. Perché in la guerra lo più difficile per far la pace non è togliere il fucile al combattente, è togliere l'armamento che ce l'ha uno in testa e la struttura, la forma di guardare la vita. Sì, la logica della guerra. La logica della guerra è molto più complessa che la che mostrano nel film di Hollywood. Sì. È molto più complessa. È una struttura che vanno desde il principio e cambia tutto il pensiero, tutta la psicologia. È un lavoro sociale, non solo bellico. È un esperimento sociale complessissimo, difficilissimo, e come è complessissimo e difficilissimo, è ancora più difficile cominciarlo a togliere. Possiamo cominciare a dire, come piccola prima conclusione, che qualsiasi processo di pace richiede, cioè vuole il popolo, no? Sempre con il popolo dentro, con la società dentro, e che deve partire da quella, no? Da quella base, che, come dici tu, un processo lungo, di lunga durata, e che non basta solo con la volontà politica, importantissima, penso, certo di sì, per dopo poter concretizzare, no? Portare e dargli forma a questo processo di pace, ma prima di tutto ci vuole il popolo, un accordo di pace in qualsiasi situazione è con il popolo dentro, lo stesso popolo che attraverso, come spiegava Eder, un cambiamento generazionale riesce a in un momento fare un click e dire grazie a una generazione che, come pure spiegava bene Eder, no? Prodotto del lavoro che fanno le donne, nelle famiglie, cominciando da lì, dai figli che non vogliono partorire per mandare in guerra, si arriva a fare quel click necessario. Possiamo più o meno dirlo come prima mini conclusione, cioè senza il popolo non c'è accordo di pace. No, senza quella pressione di una società giovane. Sì, mi riferisco a quello, giovane, certo. Giovane che sta crescendo, che sta nascendo con altre idee, e senza il contributo protagonico delle donne. Le donne sono parte fondamentale in questi processi. Per dimostrarli, ahí ci sono due esempi che ho voluto portare qua che sono molto carini. Dai. La prima è durante la guerra di Troia, in Grecia antica. Le donne hanno fatto il sciopero del sesso. Non so se lo ricordate, che era detto: fino a che voi fate la guerra, noi non facciamo più l'amore. Noi stiamo con voi a livello sessuale. Quello. Sì, sì, sì, certo. Non era. Ovviamente gli uomini stanno, dopo un po' di pochissimo tempo, si sono stati in grosse difficoltà. E quella è una storia bellissima per dimostrare che l'essere umano siamo identici, siamo fatti identico 3000 anni fa a oggi. Ha cambiato poco. In realtà la umanità cambia poco, cambia moltissimo, poco e lentissimamente. Un'altra storia carina fu il processo di Liberia, paese sudafricano, che fu molto carino. Nome di provenienza. Sì. Per niente ne volevo. Che fu una guerra bruttissima con mille di morti. Ma si è avuto tutto. Quando stanno nelle negoziazioni, le donne sono arrivate al luogo della negoziazione che si stava a fare, se non sbaglio, in Ghana. Hanno preso il spazio dove stanno tutti i maschi discutendo, non si arrivava a un accordo, le donne hanno preso, hanno chiuso finestre, porte e tutti, hanno detto nessun uomo esce qua fino a che non si arriva a un accordo. Voi di qua non uscite, arrivate a un accordo e io, noi ti apriamo le porte, ti apriamo le finestre e stiamo anche con voi, però fino a che non mi fate quello, di qua non esce nessuno. Fu una storia bellissima e c'è un documentario bellissimo che parla di questo, che le donne sono arrivate a chiudere tutto e gli uomini disperati hanno cominciato a cercare le finestre per fuggire. Un uomo e questi ha voluto picchiare una donna e hanno detto no, non lo potete fare, siamo un istituto internazionale, non lo potete fare. E poi stiamo chiusi dentro. E la polizia di Ghana, che non poteva intervenire fisicamente perché quello era un spazio internazionale, diplomatico diciamo in una forma, le avvisava a tutte le donne lo che gli uomini stavano a fare per aprire una finestra, per aprire una porta per poter uscire. Quindi le donne arrivavano e chiudevano nuovamente, mettevano nuovamente tutto e hanno fatto che gli uomini rimanessero lì chiusi finché fino a che non ricompongono ciò che hanno distrutto, non ricompongono e arrivano a un accordo. Sono arrivati all'accordo, forse. È una storia carinissima, sono delle cose che uno dice, sono le cose per le che uno dice che la umanità ancora ha qualcuna speranza. Non sono tanti in realtà, io sono molto pessimista con la umanità e anche con me, però ogni tanto si trovano alcune cose interessantissime che ancora ci danno una speranza. C'è quello, ossia c'è la dottrina, ossia il cambio di pensiero della società, che comincia a vedere altre alternative. La lotta che c'è interna fra los che vedono un'altra alternativa che è la pace, e la lotta di quelle persone ancora che rimangono con quel pensiero. Realmente sono le persone più vecchie o le persone che si sono beneficiato della guerra. Ma certo. Perché siamo onesti, la guerra non soltanto causa vittime, molti sono vittime, la immensa maggioranza, quello è senza dubbio, però non tutti sono vittime. Moltissime di quelle persone hanno trovato soldi, posizione politica, belle donne, buone macchine, buone stadia facendo la guerra. Certo, si arricchiscono i signori della guerra. Sono i signori delle guerre, che non sempre sono in un solo bando, ossia molte volte può essere anche di entrambi, però non lo posso negare io perché è innegabile. E ovviamente questi non hanno l'interesse di fare la pace perché l'hanno vissuto tutta la vita. Sì, questa è una cosa, scusa Eder, che non abbiamo detto, ma la guerra non è solo una forma di risolvere i conflitti, forse la peggiore che hanno trovato gli uomini, e forse è anche un affare per tanti, è un business per tanti, cioè almeno nel XXI secolo e da decenni direi. Non si tratta soltanto di una forma, credo io, di risolvere un problema. Vedi come gli Stati Uniti campano direttamente di guerre. Io onestamente non ho visto la prima guerra che risolva un conflitto. Appunto. Io non l'hai visto. No, se voi l'avete visto, me la presentate. Però anche chi vuole essere romantico con questa idea, non può essere accettata questa idea, non è nemmeno solo quello. È una forma di fare soldi la guerra. E soprattutto queste guerre eterne. Queste guerre dove non si può avere un vincitore, però tampoco un perdedore. Queste guerre interne, paesi interni, dove dopo moltissimo tempo vanno in un grado di degenerazione totale che contamina, che inclina tutto, todo el proceso y todas las personas que están en torno. Es un cancro que se autoalimenta y se crece, fa metástasis piano piano en toda la sociedad. Sí, sí. Y fra quel metástasis, fra quel cancro que está carcomiendo, eliminando, destruyendo toda la sociedad, piano piano c'è queste donne, principalmente le donne. A mí me piace comenzar de lì porque honestamente la historia me ha demostrado que es così. Y las nuevas generaciones que comienzan a romper esta posibilidad. No estoy a discutir el principio y el ideal de la guerra. Son un otro tema, lo podríamos discutir en otra discusión, si la guerra puede ser justa o no es justa, si se puede justificar o no se puede justificar. Es cuál es una otra discusión. Sí, sí. Qua estoy cercando de fare una piccola discussione di come si struttura quella guerra e come si arriva a un processo di pace. Se la guerra è nata per principi giusti o non giusti, quella è un'altra discussione, lo possiamo fare un'altra volta, e quello sì, bisogna dire, parlare ogni caso, analizzarlo indipendentemente, no? Sì, però perché l'idea, no, dicevi, era dare un panorama generale. L'idea è fare un panorama generale. Il panorama generale è che le guerre non soluzionano mai un conflitto. Le guerre non sono la soluzione. E queste guerre che sono eterne, endemiche, in questa popolazione, dove mai si potrà avere un vincitore concreto, definitivo, caso di Colombia, queste guerre bisogna trovare una soluzione, e quello sono assolutamente d'accordo. Io sono amico della pace, del processo di pace. Io sono, y lo digo honestamente, yo defiendo el proceso de paz que se han hecho en Colombia, con todos los defectos y con todos los sbaglios que se han podido hacer, pero yo lo que voglio fare hoy es cercar de fare capire come mai si è arrivato a questa idea. 20 años fa en Colombia, per parlare del proceso in Colombia, si è cominciato a parlare della popolazione, 20, 30 anni fa più o meno, ha cominciato a parlare della popolazione civile e della posizione de una población civil. En aquella época no habíamos noi la capacidad, yo pienso que nessuno en Colombia, de pensar que esto era lo primo, el primo pilar para construir todo una estructura de cultura de la paz. Chiamiamolo cultura della pace. Sì, come c'è la cultura della guerra. Comunque, si può parlare, penso, di cultura della pace. Comunque, quello fu il processo della società civile, il processo di clemame di nero, con la che io ho collaborato e aiutato un sacco di volte, con tutte le mie ammirazioni e rispetto, perché veramente sono bravissime, hanno un grado di resistenza. Yo parlo de la palabra resistencia, no resiliencia, que es la que nos han construido la sociedad, meterle después del famoso coronavirus, que una palabra sin un contexto, sin una plataforma, sin un contexto político. A mí me piace mucho la resistencia, a un contexto molto più bello y molto più interesante. Y las palabras fanno la diferencia. Quindi, esta cultura vienen cambiando, dopo se vengono i processi e come cambiano. Colombia sta in questo momento in quel processo che non so quanto può durare e molto meno quanti morti potrà fare, perché già sta a fare morti, quello poco però sicuro, di una società che cerca il cambiamento, di una gioventù che ha detto sono stanco della guerra, di una mame che durante anni hanno educato, hanno insegnato ai loro figli che la guerra non è logica, che non è umano, né logico, né giusto, né normale, come dicono in Colombia, ammazzare un altro essere umano. Come dice un sociologo famosissimo in Colombia, e scusate la parola, dice, quella merda non può essere normale. Certo. quella merda è ammazzare una persona perché mi ha fregato un orologio, perché mi ha guardato male o perché pensa diverso a me, non può essere normale, non può essere normale. Quindi il processo della pace è il processo della distruzione di tutta la cultura della guerra. Sì, di rieducazione, cioè, di una società. Rieducazione sociale, economica, politica di tutta una società. E quella è fondamentale. E per quello il popolo bisogna recuperare sua dignità. Qualunque che faccia la guerra, sa benissimo che per fare eterna una società è fondamentale togliere la dignità a quel popolo. È fondamentale quella parte della popolazione, non è umana, quella parte è extracomunitaria, quelli sono neri, quelli sono cinesi, quelli sono giapponesi, quelli sono quelli diverso a me, e qualcuna scusa può essere valida, qualunque, certo, anche la più stupida. E mi sembra che senza arrivare a un conflitto questo seme dell'odio si sta ponendo. No, quel seme dell'odio sono fondamentale per arrivare al conflitto. Certo. Per alimentare il conflitto e per mantenere il conflitto. Perché io non posso, se io accetto che l'altro ha la stessa dignità che io, ha lo stesso diritto a vivere che io non lo posso ammazzare. È fondamentale quello. Io per andare a fare un conflitto frente all'altro, io bisogno mettermi in una posizione superiore o diversa all'altro. All'altro. Ayn Rand lo trascrive moltissimo bene quando dice l'altro, la teoria dell'altro. Sì, sì. È una storia bellissima quando la Carta dei Diritti Umani comincia a svilupparsi, dice tutti gli esseri umani hanno diritto a, quando io studiavo in università, quello qua in Italia, qualcuno mi ha detto guarda che questo è facile distruggerlo, perché togliamo la capacità umana a quel gruppo e finito il problema. Quindi è quello dove io, e quella cultura comincia a crescere e comincia a essere una cosa reale, concreta. Sì, sì, come dicevi. Cioè, per esempio, i cristiani non possono essere uguali ai protestanti, in realtà è una religione molto simile fra una e l'altra, che non possono essere uguali, come non sono uguali a me, io le posso aggredire. Sì, si tratta di togliere la dignità o la condizione umana all'altro, cioè, quindi, chiunque sia quell'alterità, di quello si tratta, di togliere la condizione umana, perché certo, così è più facile togliere una vita, se pensate, e poter continuare nel tempo un processo bellico come questi che stiamo descrivendo, no? È più facile se uno si fa l'idea che l'altro, l'altra, l'alterità che ci mettono di fronte, che ci creano di fronte, questo non è umana, non c'ha la stessa dignità nostra, non c'ha le stesse condizioni, pertanto non c'ha le stesse diritti, e per questo può essere anche cancellato. Allora, si tratta di riprendere, recuperare quella dignità. Come si è fatto? Le cose si fanno, o se fanno come si hanno fatto. Se ti hanno tolto la dignità, è bisogno sine qua non di riprendersela. Certo, e di stabilire che tutti abbiamo quella dignità. Tutti abbiamo quella dignità, tutti abbiamo diritto a. Sì. Tutti abbiamo bisogno da. Sì. Tutti abbiamo freddo o tutti abbiamo caldo. Nessuno è superiore a nessuno, e quel contesto è la struttura che piano piano dovrebbe cominciare a germinare in un processo chiamato pace. Yeah. Oh. Il problema è che sì, scusa. No, ti volevo chiedere, senza metterti o addentrarci tanto nella situazione della Colombia, che sicuramente dopo ci metteremo in altre puntate. Dicevi, non so quanto durerà, non so quanti morti farà ancora questo, paradossalmente, processo di pace, no? Perché dobbiamo diciamo anche avere dei conti o avere a che fare con i morti che fa il processo di pace. E E quanto durerà? Giustamente perché sono processi lunghi, dicevi tu. Ma la vedi alla Colombia in questo processo, almeno iniziando questo processo di, come dicevi, cambiare la cultura, cambiare il paradigma in quanto a i diritti valgono per tutti, cioè questa è la base per cominciare a discutere almeno. La vedi almeno la Colombia, cioè non ti chiedo in che momento, a quale punto, però te la senti, cioè vedi che ha cominciato almeno questo processo la Colombia? Indiscusamente sì. Bene. Indiscusamente sì. E quello mi fa molto felice. Bene. Il processo di sciopero generale il 28 aprile lo dimostrano. Tutto il processo che si è fatto per descrivere, dimostrare, ampliare tutti i crimini dell'essa umanità che si è fatto in Colombia, dopo di anni e anni e di anni che lo stiamo parlando, che lo stiamo lottando, che lo stiamo sognando, che lo stiamo pensando e divulgando, perché l'ho detto, l'ho fatto anche io, hanno potuto costruire una nuova idea di società. Non è il 100% colombiano, purtroppo. È certo. Purtroppo, quella immensa minoria che gestiscono la guerra in questo momento in Colombia ha ancora molto potere, hanno molta capacità di fare male e ancora se la stanno giocando per la guerra. Sì. Ya, pero la generación 9, los ragazzi que están hoy fra 15 y 20 años, en su inmensa mayoranza, no digo todos, porque todos es difícil, certo, pero en su inmensa mayoranza se la están jugando por la base. Y yo pienso que esto es un proceso imparable en Colombia. Imparable, o sea, no c'è niente. Álvaro Uribe Vélez y tutti los que gestiscono la guerra en Colombia, tutti los famosos señores de la guerra, se bisognano prima o poi mettersi en paz y capire que no son bien voluti en este momento, que el tempi sono cambiati. No estamos en el tiempo de la guerra, no estamos en el tiempo. Todo este proceso, lo digo yo honestamente, son lunghissimi y complejísimos. È recuperare la storia, la dignità delle vittime, lo che fa la JEP, la giustizia speciale per la pace, non so come si traduce in italiano, che sta a fare un processo impressionante sulle le vittime, come si hanno fatto le vittime, che dignità avevano quelle vittime, la commissione, perché se sono uccisi la commissione della verità, con tutti i problemi che ha, con tutti i gruppi infiltrati che si sono intorno, con tutte le modifiche e la storia che vogliono fare, onestamente le vedo che fanno parte di tutta questa cultura, ¿ya? Por fortuna, dico io por fortuna per loro, siamo nella età dell'internet, del youtuber, y esto que mostran que el mundo es mucho más grande que el quartiere, que la zona, que el barrio, que la localidad donde yo soy nato, y que otras posibilidades son factibles, que otros países que han tenido conflictos aunque mucho más complejos que el de noi, sin decir que el conflicto de noi es fácil, por caridad no es fácil, pero sociedades que han tenido conflictos durante secoli mucho más complejos son arrivati a accordi e hanno potuto fare un volto, un cambiamento. Però per fare questo cambiamento si ha bisogno prima di che tutta questa società crescente cominci a cambiare tutto, a riscoprire una nuova dignità, a fare una nuova struttura di pensiero, a distruggere la logica della guerra e il raziocinamento della guerra che sta dentro di noi e sta molto molto immerso dentro di noi, fa parte dell'inconscio in molte occasioni e quello bisogniamo riconoscerlo che è così, per cambiarlo per un processo di pace. La pace non è soltanto la mancanza del conflitto armato, la pace è qualcuna cosa molto più complessa e riconoscere l'altro come un al otro como una persona con diritti iguales y estés que en mí. Es reconocer al otro con la capacidad de ser el otro, es un ser humano, independiente de lo que piensa, independiente de lo que fa. Es mi sueño, es importantísimo reconstruir la historia en todos los procesos de paz que yo recuerdo, comenzando con el de Sudáfrica, que es bellísimo, dovremmo estudiarlo un poco de più. Madonna mia, perché è una cosa incredibile. Nelson Mandela rimane 27 anni in galera, 27 anni in galera, con un sistema fascista fino all'ultimo osa, partito de principi fascisti, perché quello è vero. Ma anche una struttura metropolitana, c'era sta San City dove entravano solo i bianchi, questa parte della città assolutamente tutti chiusa, ghetto, no? Soweto. Mi ricordo avevano fatto le famiglie bianche si sposavano con le bianche, un bianco non voleva farlo con era proprio il razzismo nella sua strutturale dimostrazione più palese. No, no, era una visione totalmente fascista della A alla Z, non c'era un punto che no. Nelson Mandela, su gruppo Nelson Mandela, però prima che Nelson Mandela è il personaggio che prende il momento storico, certo, e lo fa rialzare. Però Nelson Mandela da solo non avesse potuto fare mai niente, come Gandhi non avrebbe potuto fare la separazione d'Inghilterra in India, come Martin Luther King da solo. Nessun essere umano da solo può fare cambiamento storico, nessuno. Per questo dicevamo, ci vuole il popolo, la società, un processo storico di un processo societario, ossia società e quel momento storico per fare il cambio. E io penso che onestamente Colombia sta in quel processo, si sta recuperando la storia delle massacri, degli assassinati, qualcuna storia anche molto molto sofferente, molto triste, molto complessa, qualcuna anche molto triste, qualcuna anche illegale, si è fatto. Qua mi viene alla memoria tutto il processo che sta a fare, per ricordare soltanto uno, Matarife. Esatto, yeah, no, lo so che recupera tutta la storia degli ultimi 20 anni di Colombia e tutti i massacri, tutti gli assassinati, massacri che probabilmente non si sono sentiti più nominare per un sacco di tempo. La Colombia forse ha vissuto un po' un oblio, adesso invece tornano, vengono rivendicati, no? Torna la memoria. Lo che dico, tornare la memoria è fondamentale per un processo di pace, perché in un mondo, in una società dove non c'è memoria non può avere pace. I 6.042 falsi positivi di cui abbiamo parlato tanto, io li sento rivendicare adesso molto più forte di quanto si rivendicavano. 6.402, no, in epoca 6.402, scusa. Sì, perché era orribile, però diciamo che anche lì forse è tornata una memoria che adesso è più. Però quella è una cosa fondamentale per colpire. Orribile. Però una cosa fondamentale per recuperare la dignità di un popolo. La speranza di una pace, capito? Di una pace, quello è fondamentale. Senza recuperare tutto il processo storico, tutte le tragedie, la pace non si arriva. Non si arriva e non c'è possibilità di arrivare, capito? Chiarissimo. Non so se sono abbastanza chiaro, però tutto lo che stiamo vedendo in Colombia. Ovviamente dopo, in altre puntate che non so quando si faranno, come no, la prossima settimana questa è la prima che non so la prossima settimana non può piovere come ha piovuto oggi, perché ormai l'ha fatta tutta. Aspetta un momento, che confermo una cosa. Che devi confermare, Eder? Come c'hai l'agenda? Ma dai, me lo fai in diretta. Ma questo, il nostro Eder, professore è richiestissimo. Mannaggia, me lo deve fare in diretta. Vabbè, insomma. No, perché la prossima settimana dovrebbe essere io con un altro gruppo di persone. Dove? Una cosa molto interessante. In la SNI, Alexenia. Aspetta. Centro Sociale Intifada, via Casal Bruciato 15. Sì. Alle 6 del pomeriggio dovrei io star parlando sobre la situazione attuale di Colombia e per dove va la patria è grande. Mo come fai a riassumere tutto come... quello che hai detto nelle nostre puntate in un'unica serata? Verrò solo per vederti riassumere tutto invito questo. Invito a tutte le persone che stanno ascoltando che mi vogliono guardare questa faccia bruttissima che ho. Sarò lì con altri compagni a parlare di questo, quindi prossimo giovedì non ci sarai. No, ci sono. Ah, ok, ora ho capito. Adesso arrivano Natale, già sta. Ok, già sta. Sto sognando con il panettone. Ma la cumbia navideña. Senti, qua il panettone. Il cotechino che mi piace tanto. Grande, guarda che goloso. Ma senti, vabbè, mettiamo che. Io penso che possiamo fare. Oltre la data, così almeno sì possiamo dare un, che ne so, un qualche spuntino. Ci addentriamo già nel processo di pace di Colombia o. Sì. Sì. Ok. Sì. Perfetto. No. Oggi si è parlato così del problema. La prefazione. La prefazione di come appunto. Si aprirà una possibilità di fascia. Ok. Sono ottimista nel senso che Colombia per me ha cominciato questo processo e quel processo di cultura per la pace che forse non c'entra, non va a essere l'accordo di La Habana, però può essere un altro, non lo so, è imparabile. O sea, per me è una decisione che ha preso la società in su immensa maggioranza. Soprattutto la gioventù, che le ammiro e le apprezzo tantissimo. Quanto mi avesse piaciuto aver nato 20 anni di prima. Ma sarebbe tutto diverso. Però, noi chi avremo qui a raccontarci certo, quello appunto. Che ci hai raccontato tu, Eder? Comunque, mi sembra che sia una vittoria moltissima. Hanno molto chiare storico, le cose. Un accumulato storico. Che non è facile capirlo, però è un accumulato storico complesso e difficile e che moltissimi abbiamo lasciato sangue e forse lacrime e morti per queste storie e... però forse questa generazione di giovani colombiani ha rotto forse un po' quella paura che c'era di parlare di politica, di fare politica, di mettersi in certe questioni, no? Noi hanno avuto la paura di parlare in contro della guerra o comunque contro quello che fanno quelli che sai che sono i forti, quelli che fanno il potere fortissimi. Sì, appunto, quindi hanno perso quella paura e quella cosa per me è imparabile. Sì, assolutamente. Non so se per le prossime elezioni possa vincere un partito più che confermi questo, che confermi mia teoria. Io mi auguro che sì e onestamente sto a fare forza a quei partiti con tutti i problemi che hanno in questo momento che sarebbe per un altro tema di parlare, però mi sto augurando che tutto questo contesto speriamo dé come un risultato diverso speriamo e che questo contesto prima o poi tolga della storia, almeno della storia colombiana, il capitolo della guerra, lo chiuda. Eder. Il problema è che quando si toglie la guerra, per finire, io so che io parlo troppo, però no, ma ci abbiamo ancora se vuoi 10 minuti, 10 minuti ancora ce li hai. Io so che sono fatto così, non posso fare un'altra cosa. No, perché quello che dice è importantissimo. E l'altra cosa è che quando si toglie la guerra escono tutti gli altri problemi. Esattamente, quello che stavo per dire. La guerra è un business. La guerra è come quella tenda, una tenda nera che non lascia vedere all'altra parte. Quando c'è la guerra non si vede niente, si vede soltanto la causa della guerra, la causa della guerra, i morti, i morti, eccetera, eccetera, eccetera, le lacrime di tutti, perché non è vero che nelle guerre piangono soltanto uno, piangono tutti, e non è vero che piangono soltanto le donne, no. Piangiamo tutti, sì, e vai così a pianto. Quindi quando quella cortina comincia a diventare meno nera, tutti i problemi che stanno dietro cominciano ad essere più visibili. E Colombia sta in questo momento, in quell'esatto momento, dove tutti i problemi della corruzione, del narcotraffico, della mafie sistematiche per governare, per dominare, stanno cominciando a essere palesemente visibili. Perché allora è lì dove ancora bisogna fare più forza a eliminar aquel proceso de guerra para que aquel proceso se abra, ¿no? Y para que una sociedad comience a cambiar. Mai será perfecta, espera, espera. Sí, sí. Mai será perfecta, no estoy esperando arribar el momento en que la humanidad sea perfecta, pues lo perdé, no sabía ni aunque augurar. No. Sería una cosa tropo odiosa, pero al menos sí, sí un po' justa y un po' umana. Certo. Perché io volevo riportare un attimo quest'ultima frase che hai detto, no? Perché allora intanto io che sono europea, quando tu parli di guerra, di persone che piangono e di quello che si vede e non si vede, indubbiamente qui c'è un altro modo di fare la guerra. Noi abbiamo questo privilegio, per cui questi pianti e questo dolore di cui tu parli, la mia generazione non l'ha mai visto. L'ha visto a pallini verdi nella prima guerra in Iraq, l'ha visto a pallini bianchi nella guerra in Jugoslavia. E non ha neanche visto i carri armati. Noi abbiamo visto dei cacchio di videogame, capito? Perché siamo, no, quelli che se devono rendere conto manco la devono vedere la tenda nera, no? Quindi questo perché per avvicinare le nostre esperienze, non so come dire. Quindi invece qui stiamo parlando di intanto di una guerra che nel nostro diciamo la nostra costruzione mentale, come dicevamo all'inizio, lui ha citato delle guerre tra nazioni diverse, tra paesi diversi, tra stati diversi. Questa ultima guerra di cui parla invece è una guerra intestina, come dicono, cioè interna allo stesso Stato, che però non è una guerra civile, perché non ci sono i rossi e i neri che si affrontano. Sicuramente c'è qualcosa di questo sotto, no? Nessuno che ha neanche così vile che ne ha neanche la faccia di dire io sono nero, no? Probabilmente, no? E sicuramente però insieme a questo poi ci sono tutta una serie di interessi che creano morte e sangue, che sono quelli di cui abbiamo parlato tanto. Quindi che succede in Colombia? Che gli attori della guerra all'interno della Colombia non sono due, sono forse tre, sono forse quattro, sono forse due, ma poi sono tre, quattro, perché sono gli stessi che cambiano vestito, no? Questo l'abbiamo raccontato tante volte. Quindi quando parliamo della guerra all'interno della Colombia e di quella tenda nera che non fa vedere quali sono gli interessi di cui abbiamo parlato in tutte queste puntate, che sono il narcotraffico, che sono il displacement per prendere territori con ricchezze, tantissime ricchezze, e quindi dover mettere un senso di terrore per cui non hai neanche bisogno di cacciare la gente, perché la gente la fai scappare da sola, no? Queste sono delle violenze pari a una violenza di uno che entra nel tuo stato per cacciarti via, perché te sto a conquistare la Sicilia, non so come dire, no? Nonostante siano all'interno dello stesso stato. Questo che dice Eder, la dignità di un popolo, la dignità del popolo colombiano, la memoria, no, di quello che è stato, di come ha saputo costruire invece quella ricchezza culturale di cui abbiamo parlato e che non è un elemento comune a tanti paesi. Non lo è affatto, no? E che è memoria di gente che è stata portata e che ha fatto memoria del proprio percorso. Nella misura in cui un popolo intero vuole avere questa come sua rivendicazione, no? La memoria della sua storia in senso positivo e non in quella negativa, per cui noi siamo i colombiani, quelli sono gli haitiani, quelli sono, no? Quelli sono quelli che passano, quindi quello è quello che fa la bellezza, la dignità di un popolo, la propria memoria in senso positivo quando deve rivendicare perché non vuole più la violenza, e nel senso di memoria quando invece la violenza subita è necessario ricordarla per spazzarla via in un certo senso, no? Per far sì che dopo quell'accordo non ci sia modo di ripeterla, giusto? Sì. Ma la so guadagnata la sufficienza? Non lo so. Dai, sto qui, aspetto il verdetto. Una cosa che mi ha sembrato molto particolare, de tanto di cui si è parlato, è che io stavo in questi paesi quando si è fatto la guerra a Saddam Hussein. A Saddam Hussein. Il giorno. Io parlavo della prima, eh? Sì, no, io parlo della seconda. La prima stavo in Colombia. La prima, infatti, c'ho mica 20 anni, curiosa. Yeah, quindi la seconda, quando hanno fatto la. Proprio la guerra l'hanno preso, hanno fatto l'hanno il primo picchiato. Bombardamenti in operazione Terror del Deserto, una cosa sì, così sì, con una cosa del cosa genere così. Ricordo molto bene come gli italiani lo hanno preso. Vespa, il famoso giornalista famosissimo, Serva, ha portato un cartone immenso con le casette in cartone a mostrare come si stava a fare la guerra. era un sacco quello fra quello, stava Beltroni, non so qual altro. Sì, ma vabbè, Bruno Vespa a fare tutto. Dico, noi Bruno Vespa abbiamo solo la bamboletta per la macumba, sì, ecco, infilare gli spilloni. L'unica cosa che abbiamo di Bruno Vespa è la bambolina per infilare gli spilloni. Come si può vedere da guerra dell'altra parte della tribuna, voi dicete Vespa. In quell'epoca lo guardavo, certo, era difficile non vederlo, stava sempre lì. Penso che non era l'unico. No, appunto, no, questo sicuro. Io non era l'unico e bisognava guardarlo perché era tema di discussione per il prossimo giorno. Preparatevi. Se io non guardo le persone che mi dicono le cose o non le sento, non posso discutere la indubbiamente il giornalismo embedded, quale cacchio faccio per venire a discutere un problema se non ho letto e non ho visto l'altra posizione. Esatto. Fra questo tu va in gran parte quello che hai detto, lo hai detto perché lo fa molto di forma molto spettacolare Diana Uribe, se la volete cercare per internet. Diana Uribe è una giornalista storica colombiana con un cognome scomodissimo che io sappia non c'entra niente, ecco, diciamolo Uribe. Perché sennò noi abbiamo scolarizzato che Uribe è il nemico. No, però è che in Colombia qualcuno ci sarà. È un po' come chiamarsi bianchi, Uribe è come chiamarsi rossi, no? Esatto. Io conosco qualcuno rossi che può essere stronzi, però nel senso che è un cognome molto molto comune, quindi non so tutti da stessa famiglia, ecco. Però a me comunque questa Diana Uribe è una giornalista molto interessante che si è specializzato in parlare in radio. Ah, vedi. Quindi voi la potete sentire, le persone che sono interessate in radio, e potete sapere quante cose belle si possono fare attraverso un microfono e quanta cultura si può mettere attraverso un microfono. Quindi poi la radio ovviamente io non arrivo alla centesima parte di quello che lei, ni a una millesima direi io. Fíjate yo. Però è interessantissima, se la volete cercare per capire qualcuna cosa in più, mi piacerebbe perché piano piano bisogna mettere alcuni autori, alcuni temi, perché le altre persone che stanno dall'altra parte del microfono, se è che c'è qualcuno che non è capito mai se ci sono o non ci sono, cominciano a fare ricerche una a caso di investigare un po' di quello. Va bene Eder, quindi direi che per oggi abbiamo chiuso quella che è un po' l'introduzione, no? Quelli che sono diciamo la prefazione fondamentale per poi parlare di quello che è stato il processo di pace colombiano, che indubbiamente non è stato un processo semplice, nonostante però abbia ricoperto molto di quello che tu hai detto, no? È stato assolutamente necessario, e quindi con questa prima infarinatura credo sarà più semplice un po' capire, tireremo su questa tenda nera. Vediamo se piano piano. L'unico che te posso dire per finire è che certo, si hanno fatto 5 anni di quella firma 2016 di pace. Quindi già sono 5 anni e già si possono cominciare a fare i bilanci. E non sono tutti neri, però non sono tutti bianchi, quindi ci sono moltissime cose. Non sono negativi o positivi. Capito? Non sono. Non è così, non tutto splende, sicuramente. Però ci sono cose che a me sembra che sono passi avanti. Beh, se sicuramente ci vuole tanto per arrivare a un processo di pace, ci vuole tanto, non bastano le firme, perché poi il giorno dopo, no, il mondo cambia in un attimo, no? Sicuramente il processo di pace colombiano ha avuto molti bastoni tra le ruote anche dopo firmato, quindi insomma avremo modo di vederlo. Diceva un cantante latinoamericano: non basta rezar per conseguir la paz. Non basta pregare per arrivare alla pace. Appunto, sì, infatti, noi poi di solito invece famo proprio il contrario, ecco. Ok, grazie mille e ci vediamo, non si sa qua. Allora, da no, bene, ci vediamo lunedì prossimo, già che tu dai per certo che giovedì prossimo sarà l'intifada, questo veramente mi fa il cuore leggero. Sì. Quindi insomma sappiamo che col freddo tu sei più sicuro, e quindi giovedì prossimo all'intifada alle 18. Quello sì, già è una per cosa. Continuare. Mi auguro che qualcuno mi accompagni, siamo molti lì, vediamo. Grande Eder. Vediamo se possiamo fare una cosa carina, non lo so, però vediamo. Va bene, quindi comunque se lo volete vedere in faccia, così poi glielo potete dire anche lì. È brutto. Io te sento per radio, prof. E quindi sicuramente non ci sarai giovedì, questo ce l'hai detto, ma noi continueremo a parlare, insomma, di quello che è il processo di pace, in particolare in Colombia, ma questo ci richiede di allargarci un po'. Quindi io ti ringrazio anche per questo giovedì. Decreterei alle 9:17 e 45 secondi, sì, addirittura di botto, i telefoni della radio vanno tutti d'accordo. Incredibile. Se non ora coincidono.